puoi odiare e ancora non sapere se ciò che si è fatto ha veramente una motivazione. Tutto questo giro tondo mi ha intontito più che mai. Dove sono non ricordo, ma spero tu mi aiuterai a ritrovare la strada di casa mia. O io mai più vivrò quella luce, quel calore, per sempre odierò. Non voglio più guardare dietro a me per sentirmi dire che la colpa è stata mia, perché io lo so. Non posso restare e continuare a vedere il nostro amore bruciare. Per colpa di una sola persona io non potrò mai più tornare. Proprio io che cosa ho fatto per meritare tutto questo? Dopo un po' non ho più retto. Spero tu mi aiuterai a ritrovare la strada di casa. Quel calore per sempre odierò. Non voglio più guardare dietro a me per sentirmi dire che la colpa è stata mia, perché io lo so già.